chiedo asilo. La voce dei bambini. Stai registrando, asino? Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Bello, averlo sponsor mi mette subito più a mio agio. Voglio dire, sono quasi le 5, l'ora del tè, e quindi... Ma dove? A casa di qualche contessa sabauda impolverata. Boia Faust, l'ora del tè. È quella lì. Tè. Sì, ma sì, no, dai, il rito del tè, K. Il rito del tè appunto, si ripete in ogni ufficio. Ma che in ogni ufficio? La famosa pausa tè, no? Davanti alla macchinetta del tè, ma ci dai, vediamo. K, no, collaboro anche tu, se no qui non riusciamo. Ma cosa? La pausa del tè si accompagna a... alla pausa per andare a pisciare, Ma vabbè, allora dai, lo sponsor lo citiamo un'altra volta, ho capito. Qui finisce che ci licenziano, buonanotte. Questo programma vi è presentato da... Wunderwaffer. Però devi dirmelo che eravamo in radiovendita. No, ma in effetti non so se tecnicamente eravamo in radiovendita. Io non sono pratico di queste cose promozionali, però insomma si cerca di fare qui quello che si può. Qui c'è un fax che è arrivato dalla Svizzera, da Wunderwaffer. Dice che si scusano per il ritardo nella comunicazione della comunicazione ufficiale. Cioè? E che per ora dobbiamo improvvisare. Cioè dobbiamo improvvisare la comunicazione ufficiale. Ma come, capito? Scusa, gli svizzeri dicono di improvvisare, ma dove siamo finiti? Te l'ho detto, il 2012 è l'anno buono per fare il botto finale, no? Anche questo è un segnale. Cioè, ma scusa, il mondo sta finendo perché gli svizzeri non sono più organizzati o gli svizzeri non sono più organizzati perché il mondo sta finendo? Drago, tu hai il dono di saper descrivere l'indescrivibile. Sono i bull dei BTP che vanno su, poi tornano giù. La borsa, sai, è un luna park, ma tanto ormai siamo quasi al crack. Lo spread cos'è che vuole Dow Jones? Lo spread che sale. Se l'euro flop, vedrai che poi questo default ci tocca a noi. Se il debito è di tutti, perché paghiamo noi? Super Mario, dove sei? Super Mario, cosa fai per questo spread? Lo spread, c'è lo spread, siamo tutti red, di red. Per lo spread è troppo sad, che sad. Questo spread, si mettesse un po' la bici e a stampare il nuovo cash, lo spread. Soldi, quali ma tu spread? Non li hai, tu sei povero. Appunto, prestami 50 euro, Niente, non si fa, K, non si fa. Ma cosa? Il caso è già rientrato, non si fa. Ma cosa? Quale caso? Il caso de... La bambola di Steve Jobs! Anzi, come si dice oggi, la action figure con le sembianze realistiche di Steve Jobs made in Hong Kong. Vabbè, ma è lunghissimo, scusa, viene così. La action figure con le sembianze realistiche di Steve Jobs made in Hong Kong. Ma è un'idea macabra, Drago. Ma dai, ma tu dici le sembianze di Steve Jobs? Ma quale Steve Jobs? Cioè, a che età? Ah, beh, che l'ultimo, lì... l'ultimo Steve Jobs, non quello con i capelli. L'ultimo, però, già l'ultimo un po' sano. È quello, cioè... no, quello con blue jeans, dolce vita nero, occhiali tondi e scarpe da ginnastica. e pure il tumore al pancreas. Ma sì, una bambola col tumore al pancreas. Lo so. Con il bottoncino, anzi, con lo sportellino sulla pancia, lo apri. Per aprire e vedere se è migliorato. Non è operabile. Va bene, allora, comunque la Apple ha fatto così tanta pressione sulla InIcons, che è l'azienda che ha ideato la bambola, che alla fine non se ne farà niente, perché peccato. Insomma, è così. Peccato, dicono quelli di InIcons. Ci abbiamo messo anni e anni a realizzare una bambola così realistica. E in più non usiamo affatto il marchio Apple. Ecco, che cosa rispondere a quelli della InIcons? Basta usare le parole di Jobs. Stay hungry, stay foolish. Questo è un messaggio registrato, perché io sono già morto. Però resta il dubbio, Kappa. Scusa, a che pubblico punti con la bambola realistica che raffigura Steve Jobs? Adesso con la fare figure sempre il marketing figure. Ogni giorno solo sì, perché abbiamo lo sponsor, Drago. Sì. Comunque punti ai fan della Apple. Oltre a computer, iPod, iPhone, iPad, iPhone. Vogliono pure la Barbie di Jobs. iJobs, capito? La Barbie. Cioè. Ma no Barbie, a parte che sarebbe Ken. Perché è maschio, scusa, no? Però è magro come Barbie. I'm Stevie Ball with a pet disease. Make me foolish, make me hungry. I'm a Stevie doll with a bad disease. Make me foolish, make... It's me, Mario. Giocare. Manovra. Su, su. Giù, giù, giù. Forza. Creare. Tassa. Ridurre tassa è certo che non succederà. Passi in avanti, avanti, genuflessione, deve penetrare di più. Però, K, giocare col Super Mario Game, come si chiama, ci distrae dal nostro vero compito. Che è essere stupidi. No, che è valorizzare il marchio Wunderwaffer nel migliore dei modi possibili. Poi sembra che Chiedosilo sia sponsorizzato da una software house giapponese. Ma no, quindi... Chiedosilo non è sponsorizzato da una software house giapponese. Oh, Chiedosilo infatti. È sponsorizzato da un'antica pasticceria svizzera. Ecco, vedi, questo è già interessante. Diciamo, pasticceria, sì. Quindi la location giusta per le radiovendite di Wunderwaffer è l'antica pasticceria svizzera. Sì, come l'antico vaso dell'amaro. Quell'antico vaso. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Narra la leggenda che a Bad Ragaz, cittadina termale del cantone San Gallo nella Svizzera orientale, vi sia una dinastia di pasticceri molto speciale, la dinastia dei Rengli. Baltasar Rengli, detto Belti Rengli, è oggi l'ultimo Belti Rengli della dinastia dei Belti Rengli dell'antica pasticceria Berti Rengli di Bad Ragaz. La pasticceria del Wunderwaffer. Wunderwaffer. E presto l'ultimo dei Belti Rengli sarà nostro ospite al telefono. Ma per ora facciamo la conoscenza degli antenati dell'attuale proprietario del marchio Wunderwaffer, tipo Berti Rengli trisnonno. Sì, però, Drago, scusa, no. Dove vai a parare così? No, è che tu fai il trisnonno di Berti Rengli, quello che c'è adesso, no? Belti sì, Rengli. Ma quel Belti Rengli lì, quello lì... È morto. Cosa importa? Tanto come? È fiction, cioè... Vabbè, diciamo... ma è necessario fare il documentario sceneggiato dell'azienda? Non è che so. È necessario, capa, è che tutti gli inserzionisti smaniano per avere un po' di fiction intorno alla loro azienda. Sì, anzi, mi sa che sponsorizzano i programmi, praticamente, solo per avere in cambio un po' di questa epica aziendale di dubbio gusto, con queste e finte quindi tradizioni. Adesso io devo fare il trisnonno pasticcere? Sì, quello che ha creato la formula segreta che rende irresistibile Wunderwaffer. Ma cosa devo dire? Ma che ne so, parli tedesco e nessuno ti capisce, no? No, ma qui citi un altro marchio, citi l'Ovo Maltina. Ma sei pazzo? Hai detto Ovo Maltina? No, guarda che l'avevi detto prima tu, No, io ho detto ovo, anzi ovo. Non Ovo Maltina non si può. Ovo, capito, come il progetto in pezzi di Andrea Pezzi. Come il progetto? Sì, oppure come il disco interattivo di Peter Gabriel. No, vabbè, dai, Tito. Roma anni 90, vabbè, Tito. Comunque, vabbè, comunque, dai, K, non ci siamo. La storia della dinastia dei Belti Rengli non va bene, dobbiamo inventare qualcosa. Secondo me ci va un testimonio un po' più così, un po' più freddo, un po' più accattivante. Non il trisnonno, forse, no? E chi possiamo chiamare, scusa? Svizzera, non so, la Hunziker. Ma quale Hunziker? Dai, anche Tito non è d'accordo. Perché? La Hunziker la butteresti via. Ma vabbè, ma lei fa già la testimonia delle caramelle. Già, anche del telefono. Anche delle donne che subiscono stalking. Già. Come si fa a trovare un punto di incontro tra stalking, telefoni, Wunderwaffer, la Hunziker, la Svizzera? Lo scoprirete solo ascoltando le prossime imperdibili puntate di... Credo asilo. Da lunedì al venerdì alle 16.45. Chiedo asilo at radio24.it. Un programma presentato da Wunderwaffer.